Pochi secondi dopo le ore 18 inizia ufficialmente quella che è la nostra ultima giornata tutti insieme in questi studi direttamente qua in via Locatelli. Inizia la nostra ultima 24 ore di vita per quanto concerne Rock FM, quindi è comunque un piacere avere con noi colui che ideò, dire perché l'hai fatto, però tantissimi anni fa, siamo nel 1990, Gigio D'Ambrosio. Ciao Gigio. Ultime 24 ore di vita, scatta no, la mano perché... No, che cazzo. Sì, sono quelle frasi un po'... No. Ha sempre un certo effetto ritornare in via Locatelli. Da quanti mesi mancavi? Forse più di un anno, eh? Ben di più, peraltro zona frequentata assiduamente credo per una trentina d'anni. Quindi, se non la prima, una delle prime radio italiane fu Milano Internazionale. E stavo pensando quando tu mi hai chiamato un po' di tempo fa. Avevamo un amico in comune. Sì. No, ma a parte questo. Ah, di recente. No, quando mi hai chiamato per dirmi vieni perché succede questo e quest'altro, al di là del dispiacere, perché comunque insomma quando chiudo una radio non è mai un bel segnale, no? E che bisognerebbe fare come fanno con i funerali americani. Festa. Sai che fanno festa. Sì. Portano da mangiare, da bere, tutti cantano, vedi gente Orleans. Che ride, non capisci perché. Ma un po' in tutti gli Stati Uniti. L'altra sera stavo vedendo in televisione Philadelphia, che è un film drammatico, con un finale terrificante. Sì. Però poi alla fine erano tutti lì, si guardavano i filmini, qui abbiamo le telecamere, gente che filma, roba che rimarrà. Giù nella strada ci sono già dei fans che salutiamo, molti hanno portato libagioni, quindi c'è una festa. È una festa. E secondo me va affrontata come una festa. È quello che abbiamo voluto fare noi. Vogliamo uscire veramente. Mi sembra corretto. Una festa che è durata, secondo me, tanto, 18-19 anni, insomma dal 90 sino ad oggi, che poteva durare sicuramente altrettanti anni, ma che è andata così. Arriva il capolinea. E allora noi diciamo che comunque, secondo me, è andata bene. È stata, anche in questo caso, credo un'esperienza unica. A Milano per la prima volta era nata nel 90 una radio rock che per molto tempo è rimasta l'unica realtà rock di Milano e che ha avuto comunque in assenza di tutto quello che normalmente le grandi radio hanno, quindi investimenti, soldi, promozione, pubblicità, ha avuto invece dei riscontri trasversali straordinari. Io mi ricordo che incontravo gente che arrivava da posti insospettabili, con età addirittura per me inimmaginabili, cioè molto grandi, molto adulti, piuttosto che giovanissimi, che indifferentemente ascoltavano Rock FM. Beh, e quindi, insomma, il bello lo vedi anche se capita ad alcuni di frequentare ancora i concerti, vedi che so, concerto di Deep Purple, il padre con il figlio, sì. Quindi sono generazioni e generazioni che vanno a tramandarsi. Guardavo proprio l'altra sera su MTV uno speciale fatto da Elena Di Cioccio sul concerto dei Kiss a Verona, dove intervistavano Errol Music, scusami, giusto? E intervistava un ragazzino di 18 anni che evidentemente i Kiss li ha solo visti in fotografia, in qualche vecchio e sbiadito videoclip o sentiti sui dischi, e conosceva perfettamente tutte le canzoni, era eccitatissimo all'idea di andare a vedere finalmente i Kiss al ritorno. 35 anni di carriera credo fosse il motivo di questa tournée. Questo in qualche modo significa che il rock è eterno ed esatto. È credo il genere musicale che ha l'ascolto più ad ampio spettro rispetto a qualsiasi altro genere, che comunque passa nel tempo ma che in realtà vedo rimane dall'altra sempre. Parte con un cappello, c'è anche lui, eh? Sì, c'è anche lui. Bravo tutti. Ringo, ti ricordi quando venni a pizzicarti all'Hollywood e facevi il disc jockey e detto secondo me tu hai la faccia giusta per condurre anche la vestito? Eh? Ah no, scusa. Cosa ha detto? Quando lo beccai con il sì. Esatto. Quella sera lì. Proprio quella sera. Ebbene. E quindi questo era il motivo per cui un bel giorno, avanzando tra virgolette una frequenza all'allora editore di Radio 101, dissi mi fai giocare con questa frequenza, tanto è la quarta che hai su Milano e non potrebbe servire a null'altro che a tentare una nuova avventura. Quindi l'anima rock ce l'avevi anche tu? Sì, ce l'hai. Sì, vi devo raccontare tutta la storia se avete voglia e tempo, se no facciamo partire il primo disco, ma tanto chi se ne frega. Il dischio la non musica siamo qui per raccontarcela. Allora, la prima idea in realtà fu quella di aprire una radio di musica oldies. E per un mesetto mandammo musica anni 60-70, gli oldies come erano considerati appunto rispetto agli anni, agli cioè anni 90, quindi gli oldies erano quindi 60, di tutti 70, i generi musicali. Di tutti i generi musicali. Poi ragionando io pensai, ma alla fine di rock non c'è nulla. Esistono dei pezzi che sono scritti nella storia della musica e che le radio commerciali di allora non mandavano in onda, ma cominciare da, so, i pezzi dei Led Zeppelin, dai più famosi ai meno importanti, a quelli dei King Crimson, Jethro Tull, Van der Graaf Generator, Genesis, che era un po' la musica tra virgolette della mia epoca. Allora ho detto, facciamo una radio che in barba alle logiche delle radio commerciali, che devono andare in onda i pezzi pubblicati e decisi dalle case discografiche, tagliati a 3 minuti e mezzo, dimentichiamoci di tutto questo, mandiamo in onda la bella musica. Se il pezzo dura 8 minuti, lo facciamo ascoltare dall'inizio alla fine, anche perché interrompere una canzone dei Led Zeppelin che ne dura 8 dopo 4 minuti significa fare imbestialire chi la sta sentendo. Detto, facciamo Rock FM, una radio di sola musica, mainstream, proprio il genere che in America funzionava già da parecchio tempo, e nel breve volgere di qualche mese con una blandissima campagna di affissione su Ricordo Milano, ancora forse un microfono stile anni 60 con il fuoco. Assolutamente sì, un marchio disegnato da Patrizia Zani, che era una vecchia conduttrice di 101, e alla fine copiato peraltro da una radio americana, o ispirato diciamo da una radio americana che faceva musica rock, parte e nasce Rock FM con la frequenza 98.7. Dopodiché la radio ha avuto un successo importante, soprattutto rapportato a ciò che veniva, al modo in cui veniva promossa, e quindi abbiamo deciso di dargli, come dire, un'altra faccia. Il format differente. Io ho detto, vabbè, mi sto occupando di 101, chiamo quel bravo ragazzo di Marco Gravelli, che mi sembra nel panorama delle radio milanesi uno dei più appropriati a seguire un'operazione di questo genere, e così. E mi ricordo, sono entrato, ok, questo è il computer, queste sono le scalette, ciao, finito. Sì, mi ricordo. Piena fiducia. Sì, sì, infatti. Anche perché potevamo permetterci il lusso di, tra virgolette, sperimentare, o comunque di fare qualcosa che normalmente nelle altre radio a Milano non si sentiva, e quindi c'erano anche ampi margini, per potersi muovere di indipendenza, sicuramente. Va bene, allora partiamo con un pezzo, uno scelto naturalmente, uno scelto da a caso. Io nasco Tamarro, e quindi mi una ricordo più... quando avevo i capelli e facevo qualche serata in discoteca, uno dei miei cavalli di battaglia, perché poi l'altro lo ascolteremo subito dopo, era Jump dei Van Halen, ed è questa. notte di Jump, stavo guardando la scelta, appunto, Van Halen, poi gli altri li scopriremo, e stavo guardando che nel corso di questi 18 anni tutti e tre le band e gli artisti sono passati dai nostri microfoni. Devo ringraziare comunque Mondadori per avervi concesso la possibilità di chiamarmi, e quindi ringrazio direttamente anche loro, perché comunque sono, voglio dire, è debutto. Ci sei. Nonostante tutto. Mi sembrava anche giusto, se no mancava il pezzo fondamentale che diede il là, lo start al tutto, quindi. Ma guarda, è io giusto. Quando, diciamo che a una certa età. Ma va? Come te, no? Credo. Infatti, siamo dello stesso anno, mancano giusto? Mancano 6 ore al mio compleanno. Ah, beh, un bel modo per festeggiare. Va bene, dicevo. Comunque, quando avevo 10-11 anni, e allora si compravano già i dischi a quell'età, i vinili. Perché credo che oggi questo non si faccia più, ma non voglio fare il nostalgico, però c'era un negozio che c'è ancora a Milano, ed è Buscemi in Corso Magenta, che importava i dischi. Il primo album che io ho comprato è stato Selling England by the Pound dei Genesis. Da lì il mio amore per loro, che è nato e che è durato e che continua a durare. Quando ho saputo che non si esibiscono più, ho pianto, mi andrò a comprare il loro CD del concerto in Roma, che insomma è una stata una delle ultime occasioni per vederli dal vivo. E da lì in poi chiaramente, nonostante poi radiofonicamente io fossi evidentemente più legato a 101, che aveva un'impronta, come dire, black, la mia anima era ed è sempre stata, e credo sarà sempre, un'anima rock. La mia discoteca personale ha tutti i primi vinili dei gruppi che abbiamo nominato prima, i King Crimson, i Van de Graaff Generator, i Jethro Tull, i Pink Floyd, eccetera eccetera. Quindi per me riuscire nel 90 a far partire un'operazione che nasceva come gioco, ma che in realtà aveva, secondo me, un progetto molto serio alle spalle, è stata una grandissima soddisfazione. Poi purtroppo le cose sono andate come sono andate, nel senso che non siamo stati supportati dalla fortuna, e soprattutto da qualcuno che in qualche modo ci credesse tanto da investire. La dimostrazione, lo dico con un po' di dispiacere, è che oggi un grande network che ha aperto da poco e che fa questa musica, nel giro di pochissimi mesi ha ottenuto dei risultati estremamente lusinghieri. Questo sta un questo po' vuol dire che il pubblico rock c'è. Sicuramente. Esatto. Il pubblico rock c'è e ci sarà sempre. C'è Max, salutiamolo, perché sennò stai lì a guardare, sei imbambolato. C'era anche la Claudia. Guardavo con grande ammirazione, in effetti. Più che altro sono qui per riportarti un po' di curiosità, che in questi giorni, dicendo che appunto saresti stato tu a aprire questa lunga 24 ore, sono proposto. Qualcuno ci chiedeva, ma vi ricordate qual è stata la prima canzone che è stata trasmessa da Rock FM? È una domanda impossibile? No, in realtà io onestamente non me lo ricordo. Mi ricordo però di un episodio dei primissimi giorni di Rock FM. Un giorno venne Ligabue. Aveva pubblicato il suo primo disco, che era Balliamo sul Mondo, giusto? Correggetevi se sbaglio. Copertina bianca azzurra, se non mi sbaglio. Sì. Viene Ligabue, timidissimo, fa la sua intervista nello studio là in fondo, e poi ci saluta e se ne va. Io lo incontro giù con il suo promoter, insomma, con il discografico, e chiedo: hai fatto il liner per Rock FM? Il liner è: ciao a tutti, sono Ligabue, questa è Rock FM. Io ascolto Rock FM. ID. Esatto, ID. Gli ID per la radio. No, non l'ho fatto. Dico: fermi tutti, ragazzi. Non era difficile, peraltro, intuire che quel pezzo sarebbe diventato un successo clamoroso. Forse un po' più difficile era immaginare che Ligabue sarebbe diventato l'artista che poi è diventato. Però lui è tornato, ha fatto il suo liner, e credo che quello sia stato il primo jingle in assoluto fatto da un artista che poi è diventato uno dei più grandi per Rock FM. Peraltro, insomma, poi voglio dire, stai scrivendo delle cose, tu mi confondi. Messaggi per la regia. Non vado in diretta, credo, dall'epoca giurassica, quindi sono anche un po', voglio dire, a disagio, nel senso migliore del termine, anche perché sono in uno studio che, non so come dire, mi evoca anche qualche ricordo. Esatto. Allora, io ho scelto un'altra canzone. Perché? Di cui conosco il significato del titolo della canzone, che mi piace il brano, non so in realtà che cosa racconti il testo di questo motivo, ma il titolo della canzone dice Boulevard of Broken Dreams, che letteralmente vuol dire la via dei sogni infranti, e c'è una via che si chiama così in Italia, no? Ed è via Locatelli. Esatto. Ever known, Via Locatelli 1, è il nostro Boulevard of Broken Dreams. È vero o no? È vero, verissimo. Vedo un po' di facce al di là del vetro di gente che ha cominciato a fare la radio proprio dietro i microfoni di Rock FM. È vero. E ti ascolterete nelle prossime 24 ore. Déjà vu. In effetti lo step successivo, sì, dopo la rotazione dei brani, eccetera, anche perché suppongo che la gente si lamentasse mai i titoli, chi sta cantando, eccetera. Certo. Ha detto, beh, allora magari proviamo a mettere qualcuno in onda. Ed era, secondo me, giusto far fare la radio a chi non l'aveva mai fatta, perché era una radio per la gente che doveva essere fatta dalla gente, dai ragazzi che amavano questo genere di musica e che indipendentemente poi dal profilo estetico con cui lo presentavano, ci mettevano l'anima, ci buttavano dentro quello che avevano nel cuore. Esatto. Quello che ormai, senza far polemica ovviamente, oggigiorno si sente un po' raramente in giro. La radio ruspante, no? È vero o no? Termine giusto. E allora, va bene, direi che la mia mezz'ora va così esaurendosi. Anche perché tra poco c'è la prima voce, certo, di Rock FM. Certo. Esatto. Io vorrei approfittarne per ringraziare Gigio. Perché. No, è vero, Gigio, io ti devo ringraziare perché non so per quale strano motivo, ma sei stata una delle prime persone che ha creduto in me. Ancora dopo 15 anni mi chiedo. Perché lui però... ha provato il tuo provino. Se vuoi. È lungimirante. Non evitiamo di parlare della famosa quarta Coppa C. Quello aiutava in ogni caso. Però detto questo, siccome ho già pianto una volta uscendo da questa via, non voglio farlo la seconda volta. Un sorriso, hai detto che deve essere una festa, quindi festa sia. Grazie Gigio. Grazie voi ragazzi. Grazie, Gigio. L'ultima canzone è quella che non vi deve far dimenticare niente e nessuno che abbia avuto a che fare per tutti questi anni con il nostro Boulevard of Broken Dreams, cioè Via Locatelli 1. La canzone non può essere che l'inno del tamarro. Don't you face simple minds. About me, I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me.

Live presenta Rock Your Summer 2008 Gods of Metal. 27, 28, 29 giugno Arena Parco Nord Bologna con Iron Maiden, Slayer e Judas Priest. Evolution Festival 11 e 12 luglio Idroscalo Milano. Metallica 22 luglio Arena Parco Nord Bologna. Rock of Ages 13 settembre Balashart di Milano con Twisted Sister e The Extreme. Infoline 055 55 20 575. www.liveinitaly.com in collaborazione con Rock FM. Loser Music Club presenta Loser Summer presso San Salvi Città Aperta, via di San Salvi 12, padiglione 16, Firenze. Inaugurazione sabato 31 maggio. In console tutti i DJ del Loser Summer. Dal 31 maggio, nello splendido spazio di Kille della Balanza, all'interno di San Salvi, lo staff del Closer delizierà le vostre orecchie e i vostri palati con drink e DJ set. Aperto ogni sera dalle 21 alle 2. Loser Summer presso San Salvi Città Aperta, via di San Salvi 12, padiglione 16, Firenze. Info www.closer.forumfree.net. Rock FM. Diana di Polanca, rivista dai Misfits, la prima canzone scelta dal nostro nuovo ospite. Abbiamo un nuovo DJ, infatti, il nuovo DJ Ringo. Come state, bastardi? Lo so che siete incazzati dentro. Ma... No, stiamo. Sì. Ed è arrabbiato. Caramelli, come stai? È da un bel po' che non ti vedo, sì, ci fa piacere. Dietro Cristino... Lui è da una... Caramelli, sei arrabbiato tu? Io? Sì. No, perché? No, infatti dicevo perché chiedeva se eravamo arrabbiati. No, ci sono vari tipi di arrabbiature, quelle negative e quelle positive. Esatto. In questo caso è negativa. Diciamola che così, allora. Grazie dell'invito, mi dispiace per l'occasione perché, Non era in questi studi, No, io ero... I tuoi inizi erano dagli altri studi. Io dagli altri, due studi prima. Questi qua erano già quelli fighi. Ce li hanno dati poco fa, cosa credi? Qui ci venivano i Gigio, i Valli, esatto, gli Oldani, e tutti gli quelli altri, fighi, Luca Dondoni. Sì. Noi eravamo quelli poveri. Di là, brutti sporchi e cattivi, cappelloni, gruppi metallari, eccetera. Tra parentesi, questa mattina ho avuto una delle tue prime band che ha intervistato negli... Chi? Tommy gli Estrema. No, grandi. Infatti si sono ricordati. Sai che l'altro giorno mettevo a posto la mia stanza. Ma vuoi smettere con la chitarra? Stai fermo. Stavo facendo i Ramones, ti facevo la basetta. No, veramente? Bravo, riconosciuti. Brava le bionde trecce. Vediamo. Grazie, grazie. Allora stavo dicendo che ho visto delle foto, mettendo a posto il cassetto, ho trovato una foto con i Radiohead di là, tipo 16 anni, il Rage Against Machine 18 anni, proprio tutti 92 bambini. Quindi eravamo. Sì, sì. Già un tuffo al cuore, poi oggi tornare qua a riprendere l'ascensore e lui è testimone, sì? l'ha aperto lui. Sì, è testimone, ero col ditino a cercare la... Il campanellino. No! Il codice, mi è venuto istintivo col codice. E ti ricordavi il codice? No, ecco. Però beh, ci hai provato. Io tentavo 666. Il solito, dici, sei. Vediamo se sono rimasti sotto quel punto di vista. Però complimenti per tutto il passaggio di quelli che sono venuti, almeno è stata una bella prova di amicizia, di affetto. Di affetto, di solidarietà in questa settimana, veramente tanti ospiti sono passati nei nostri studi. L'ultima band arriverà intorno alla mezzanotte, saranno in Negramaro, quindi chiuderanno a livello musicale, ma poi c'è ancora tutta la giornata di domani. Torniamo alla musica, hai scelto un primo pezzo dedicato alle donne. Ho scelto i Misfits perché era Diana, è un pezzo dedicato alle donne. Sì, tutte le donne sono Diane. Ok. Voi sapete il motivo. C'è anche la rima, basta, dico solo questo. Basta. Adesso qui mi verranno 3.000 messaggi di femministe, no, perché ho spiegato a Diana, era una delle prime delusioni amorose, quando avevo 12-13 anni, ero innamorato di una Diana, che io poi ti sto in Diana, e chiaramente lei non quando io poi l'ho corteggiata e tutto, mi ha dato un bel picche, non solo, e nelle prime volte che andavo in discoteca l'ho beccato su un divanetto a gogo con il mio migliore amico. Quello è stato il colpo al cuore. E lì ho capito subito, già 14 anni, come erano le donne, cioè proprio nate per farti soffrire, è un po' come il rock and roll. Quello sì. Cosa ho scelto? Cosa hai scelto come secondo? Sid Vicious. Ho scelto Sid perché mi fa. Tu li hai visti dal vivo? Sì, nel periodo inglese. Allora, okay. Ho scaricato gli strumenti per loro e per un po' qualche secondo da ragazzino ho conosciuto Sid Vicious che stava passando mentre scaricavamo. Io scaricavo gli strumenti per non pagare il biglietto, loro ci davano una il birra, Rodi. Il Rodi si sfigato, ero magro come una. Vabbè. E mi urtò col suo giubbotto di pelle Sid Vicious. Ah. E quando si girò quei due secondi, quell'occhiata mi è sempre rimasta. Nella tua mente. Io avevo coraggio di lei, I'm from Italy, stato zitto. E così, e poi lo vedevo sul palco, quando lo vedi pieno di sangue, si spaccava, dicevo, cazzo, questo è un matto. Era capace di suonare, eh? No, ma chi se ne frega, era Sid Vicious. Ciao Claudia. Perché mi metti salto? Allora, vi ho già spiegato che mi sembra evidente che questa radio debba chiudere perché la vostra imprecisione tecnica è visiva. Guarda, ma noi abbiamo il DJ Ariele che è tanto bravo. Allora, io finalmente volevo vedere le nuove tette della Claudia. Le nuove. Si è messo davanti. Sono nuove, sono solite. No, sono sempre quelle, sono sempre quelle vecchie. Quando ero qua non ce le avevi così. No, ce le avevo così. Così? Sì, possiamo, sì, un ghiaccio. Erano, è la famosa quarta Coppa C, dai. Sì? Famose in questi 15 anni. Porca miseria, come mi sono perso. Tornare indietro. No, sono sempre state così, Vabbè. Si vede che non buttavi l'occhio. Sì, adesso. No, occhio, okay, avrei buttato qualcos'altro anche. No, nel senso, adesso. Non vuoi dirlo forte, a proposito di Diana, quella roba là. No, Diana, poi molti mi hanno chiesto, molti, uno ha chiesto, ma sono i Misfits? Sì, erano i Misfits prima, sì. Era un progetto, Project 50 si chiamava quel disco. Tutti i pezzi anni 50, fatto, sì, con Marky Ramone alla batteria. Vero. Era un Great Balls of Fire, se non sì, ricordo male. Sì. Bella, a me piace molto nel rock, non so, poi ognuno ha i suoi gusti nel rock and roll, capito? Mi ricordo Garavelli rompeva i coglioni con Aldo Nova, due palle, cazzo. Aldo Nova, gli avrei sparato Aldo Nova. Era un chitarrista pazzesco. Ogni tanto saltava fuori con questi super mega virtuosi della chitarra, quelle una volta sentivo Garavelli che mette un disco, sento questo virtuoso che voleva imitare tipo, non so, Steve Vai. Dico, cacchio, vedo la copertina, perché tu chiaramente tra colleghi si fa, lo vedi un disco appoggiato, la cosa che fai, lo prendi per dire, fai la faccia, sì, lo conosco. Anch'io questo disco. E vedo il capello biondo, sai quello tipo liscio, stirato, e lo stivaletto alla Celentano. Questo qua. Bellissimo. Ed era canadese, no? Aldo Nova, se non sbaglio, canadese. Si chiederà. Quando erano così, erano o del Canada o del New Jersey. E arrivano da lì gli smalettoni. A me piacciono i pezzi anni 50 nel rock and roll, ma riproposti in versione punk. Uno dei primi è stato Sid Vicious, che prima abbiamo sentito Come On Everybody dire. È vero. Eddie Cochran. Aldo Nova, Ringo, ma no, hai tirato fuori un nome che onestamente. Avevo due chance, tirare fuori Aldo Nova. O qualcos'altro. No, ho tirato fuori il Motley Crue, ma li ho sentiti prima e ho detto no. Ma li puoi rimettere. Perdonatemi, mi inserisco solo per dire che io ho due dischi di Aldo Nova. Stavo di dire io. E falli girare allora. Possiamo averne una copia, non so, visto Rock che... FM siete, sarete sempre voi, vi aspetto ovunque, anche sul web. Io, ma voi farete Rock FM sul web, giusto? Non noi. No. Chi lo fa? Loro. Quelli che ci chiudono. Loro. Un'altra entità. Sì. Terranno questo altra canale. Entità, vaffanculo. Ma cosa vuol dire fare? Allora, io non per carità, Rock FM rappresenta per i ragazzi a casa, per voi e per me tantissimo. Però per il rispetto che c'è nei confronti di questa radio, mi sembra stupido e assurdo fare. Io dico il mio pensiero, poi non è che il mio pensiero è legge, dico la mia idea. Cioè, fare una cosa web. No, ma è quello che pensiamo tutti, Ringo. Cioè, non cosa ti vuol dire? Non lo so. Guarda, dovresti chiedere. Web è un surrogato di qualcosa. Io odio la radio web, lo dico perché cioè posso capire se devo pagare o vedermi su web del porno, allora che ha un senso, ma tutto il resto c'è la musica, ma c'è i miei CD o il mio iPod, come ognuno di noi a casa, no? Sì, no, ma sì, guarda, sì. Siamo assolutamente d'accordo. Ma loro l'entità li ascoltano questi giorni. Ma non c'erano ma bah, non ci caga. Beh, perdonami, però non stanno ascoltando, si sono persi una settimana da brivido. Ma loro non sanno cosa sono i brividi. Può essere. Sai, mi stai facendo ragionare come in realtà prima tu dicevi io non volevo venire al funerale, ma infatti io ti dicevo no Ringo, questo non è un funerale. Allora, aspetta, festa. Spieghiamo. Io ero un po' restio a venire, però sapevo che poi si sarebbe scatenato, ecco, il bastardo traditore, eccetera. Codina di paglia. Qualcuno me l'ha scritto, tifoso di Rock FM ha scritto che sono un traditore. Perché? Non lo so, l'ho spiegato, io non c'entro nulla con Manowar, col gruppo. Sì, appartengo ad un altro gruppo e posso solo che venire qui. E allora ho detto, beh, è giusto che venga, anche se io dicevo a te prima che sono contro i funerali, nel senso mi fa fatica andare ai funerali, adesso uso una parola grossa, perché il ricordo deve rimanere nel mio cuore e nella mia testa, bello o brutto che sia, è una cosa mia. Andare a celebrare un funerale di Rock FM per me era un po' pesante la cosa. Ma infatti questo è una festa. Sai cos'è? È un funerale messicano. Ma esatto. Sai come si fa in Messico? Voi sapete meglio di me che alla fine è un funerale, è una festa ma poi è un funerale. Ma sì, quindi... ma giustamente Gigio prima diceva i funerali americani, no? Che in realtà poi sono quasi... No, meglio quelli pugliesi. Ma quelli meglio quelli messicani. Quindi sì, si ricorda tutti insieme, si fa festa, si però appuntano... Io ho una cosa triste, io ho una cosa tristissima da dire. Aldo Nova. Che secondo me è un meraviglio. No, tu Ringo secondo me puoi capire che il problema è doversi distaccare da un marchio al quale vuoi veramente bene, perché quelle persone che sono rimaste qua hanno... Io non lo so, il marchio... Io ci sono un po' affezionato, sai, sarò un romantico. Io ho imparato che il marchio alla fine non serve un cazzo, la sostanza e... Quello è vero, però il metodo di lavoro utilizzato in questi anni, almeno per me... Funziona più il marchio Beatles o John, Paul, John e Ringo? Grazie Ringo, mi hai fatto passare il fatto d'umore. Ma poi io sono a posto. Siete voi siete John, Paul, John e Ringo, tutti quanti voi tra che fan siete voi. Secondo me il discorso di Ariel si rifà anche al fatto che appunto questa radio continuerà via web senza chi l'ha fatta, senza chi ha passato le giornate qui, senza chi ha fatto le interviste, senza chi fate un'altra radio voi web e chiamata Rock FM 2, non lo so, combattete. No. It. Rockfamily.it, arriveremo da quelle parti. Giusto, ti hanno parlato presto di questo Rock Family. Abbiamo un sito fighissimo. Sì, sì. Ma mi stanno sulle palle i siti. No. Cioè, no. Vabbè, arrivano, gli vanno, Va bene, ci vengono. I siti, no, io già faccio una fatica con MySpace. Che appena apri, rispondi, cazzo, mi dico, ma cacchio. Cioè, approva il commento, dammi l'ad, mettimi in top. Senti, ma una domanda per te. Sì, dai, vai. Hai portato altra roba e non intendo droga, intendo. Ho portato un gruppo che ho conosciuto svedese anni fa. Che si chiamano Pinguini e Orsi Polari, sono svedesi. Pinguini and Polar Bears. Perché uno di loro mi disse: tu conoscevi mia sorella? Perché negli anni 80 io ho avuto una fidanzata svedese. E subito ringo Italia. E non era Diana. Allora, mi è successo anche con Marilyn Manson. Adesso vi un altro aneddoto allucinante. Cioè, un conto tu dici uno dei Millen Collins. Ma quando arriva Marilyn Manson davanti, I hate you, Ringo. E tu, cazzo. Io ho un aneddoto su Marilyn Manson di Ringo. Perché una sua amica ha fatto la modella a Milano all'epoca d'oro. Tu ci sei uscito per una cena? Quella si è innamorata, insomma, ci è rimasta male. Ritorni in America, lui che, ma perché piangi? Mi sono innamorato. E lui fa: cacchio, Ringo, ti ho sopportato per 6 mesi a sentire il tuo nome. Adesso che ti conosco, dovevo intervistarlo. Io mi cagavo in mano perché lui è una bestia. Vabbè. Io ho un aneddoto su Ringo e Marilyn Manson. Bene, mettiamo il disco. No, aspetta, che è carino. Perché io ho visto le chiappe di Ringo. L'unica volta che ho visto le chiappe di Ringo in vita mia. Sì. Lo dici con tono un po'. Una volta sola, tra l'altro. È quando Ringo tornava dall'Hollywood dopo aver intervistato Marilyn Manson. E si pavoneggiava di avere la firma MM sulla chiappa sinistra una M e sulla chiappa destra l'altra. Perché lui ha fama sulle palle, tu c'era stato. Devo scegliere il testicolo per finire il gluteo. Quindi mi è andata veramente di culo, dice, perché sennò mi facevi vedere. Ma ti vedi l'imbarazzo di Marilyn Manson che metti nel testicolo sinistro in mano e me lo firma. Meno male che non gli hai chiesto tu l'autografo dopo Ringo, sennò ti toccava. No, parlavamo di Millen Collins. Millen Collins, sì, mi è capitato. No, bene, no, comunque si sa che uno dei problemi di Marilyn Manson è che ha la calligrafia piccola, ragazzi. Ma il pennarello era grosso. Mi fai sentire Millen Collins a Rock FM? Yo! Thinking this way is the something that we both fought for. Living this way is something that we never. ascoltato i Melancholing, abbiamo in studio Ringo all'interno della 24 ore di Rock FM. La Claudia, come al solito, ne combina una. Grazie Claudia. The Rio. Mi hai lasciato gli strumenti alle spalle. Posso dare Claudia il benvenuto a The Rio? The Rio. Grazie. My name is Rio and she's dancing on the moon. Chitarra subito. Il Duran Duran l'ha scritta per te questa. Allora, sto rovinando la canzone. Dopo i Blue Vertigo, che ieri ci hanno riproposto una struggente versione di Through the Barricades, direi che anche questa ci stava Rock FM. Sono le 18:49, dispiace un po', guarda l'orologio, perché sappiamo che sempre ora in meno. Sì, si sta avvicinando un momento triste, che però esorcizziamo, perché non vogliamo parlare di funerale, ma vogliamo parlare di festa, la festa del rock and roll. Grazie ancora a Ringo che è qua, ma vogliamo parlare parliamo di qualche anno fa, Ringo, di... Allora, nel 92-93, ecco. All'epoca con Borra, Angelo, che è il nostro vecchio editore, e gli si senti, 101 fa cagare. Ma proprio così dissi testualmente. E io sono molto legato a 101, cioè Gigio mi ha portato 101 con braccia larghe, quindi però in questo momento non c'è, proprio, anzi è la frutta. Secondo me tieni le frequenze di Rock FM e la fai diventare Radio Milano International, quella storica, quella che piaceva insomma ai milanesi e dintorni, e nazionale portiamo Rock FM, che diventa la radio rock, l'unica radio rock, l'unico network rock in Italia. Quindi siccome qualcuno mi ha mandato dei messaggi anche a Virgin, no? Pensando che io ci sia dietro questo complotto, ma io proprio non, perché ci sono quello, io veramente tu sei cresciuto, sono cresciuto, ma non farei mai del male a Rock FM. Non ho i soldi per poterla rilevare, perché ci è stata offerta dall'altra parte la frequenza di Milano a 7 milioni di euro, una pazzia, cioè che solo la frequenza, frequenza? Sì. Ah, ok, beh, quindi anche due lì, lire. Io non ho quei soldi, non c'entro nulla nei complotti, ma lo dico perché per rispetto per i ragazzi che sono, che stanno lavorando, ma secondo voi no, ma è molto importante questo, ma infatti, questa cosa che dice, abbiamo anche cercato di dirlo, esatto, che Ringo già no, una ragazza diciamo, sotto mi ha urlato traditore, no? Io detto, ma perché, no, ma cosa bisogna chiarire, bisogna chiarirla la cosa, ma assolutamente sì, era giusto chiarirla. Il problema è che noi le voci, ma qualcuno che ha pensato che tutti... con Virgin esplosa ci fosse dietro la mia mano per appiattire, per affossare. Però il discorso importante, cioè, qualcuno l'ha pensato chiaramente, il discorso importante da chiarire per la gente che fruisce della radio è che voi sentite delle voci, dietro a queste voci ovviamente c'è qualcuno che ha fatto degli investimenti, che crede o non crede nel progetto, come purtroppo nel nostro caso. Ringo è qui a testimoniare proprio questo, Ringo ha sempre creduto in questo progetto, il fatto che adesso lo stia facendo con un altro marchio non è motivo per cui ho portato un altro editore che ha creduto nell'idea, l'ha fatta. No, ma infatti è un questo dimostra di il successo anche che in questo momento sta avendo Virgin Radio, dimostra ancora una volta che il rock in Italia, c'è spazio, c'è mercato per il rock, e qualcuno finalmente l'ha capito. Finalmente gli editori che avete voi, che avevate voi a sto punto, non hanno creduto, però esatto, non c'è nessun complotto dietro, assolutamente no. Noi no, né il potere, ragazzi, né i soldi a disposizione. Al massimo posso fregare la donna a qualcuno, ma di più non posso fare, cioè al massimo. Però secondo me questo è un argomento che è meglio non affrontare, Ringo, se no ho capito, è rischioso, però voglio dire, perché anzi posso anche dirlo, non ho nessun problema, posso dirlo in diretta, qualche mese fa mi contattarono e io mi offrì anche di tornare qua, se dietro c'era un progetto valido, quindi lasciavo quella che era la neonata Virgin, penso un po' cosa facevo, per venire per cuore a passare di qua. Quindi questo lo nascondo, lo dico bene, senza problemi. Benissimo. Cioè, non mi hanno cagato per la seconda volta, ho detto guarda che pirla che sono, mi sono beccato per la seconda volta un picche da Rock FM. Cioè guarda che, perché io odio i picche, come penso tutti nella vita, no? Certo. Ecco, ma sono riuscito a beccarmi anche il secondo. Hai visto? Che scemo che sono. Hai visto quelli in alto che cosa riescono a fare? Ma quindi ragazzi, non prendetelo con me, non c'entro nulla. No, esatto. Ma il fatto che tu sia qui in questo momento lo dimostra, certo, è un'altra dimostrazione, quindi... Vi inviterò dall'altra parte, a 105, che sono un po' più libero, poi così magari verrete un po' per uno a dire la vostra. Quando vuoi. Uno scambio di corsie, sì, che bello. Prometto che una volta vi darò spazio uno per uno a tutti, così voi direte la vostra. Un'ora per uno a Revolver Cult. Promesso. Senti, abbiamo le registrazioni, quindi... Io, permettetemi una cosa, non nasconderò un po' di delusione, perché speravo che Ringo venisse accompagnato da Tokyo. Dov'è Tokyo? Perché non è venuto Tokyo? si scagazzano in giro, lui, Andrea e gli altri scagazzano veramente in giro. Ragazzi ne sanno. No, ragazzi. Stanno lavorando, i vostri colleghi sono in regia in questo momento, quindi hanno dei turni. Ok, comunque Tocchi ti vogliamo bene in ogni caso, anche se non sei venuto a trovarci direttamente in studio. Sentiamo anche Andreino. Senti, hai qualche cosa di particolare, un aneddoto, un ricordo particolare che sì, in ogni caso ti rimarrà? Una volta a One One facevo Ringo Show di notte. Fino alle 4 di mattina, com'è, c'era Roccia, il mio fido Roccia, che sta arrivando, Roccino, e c'erano da un po' di mesi due napoletane che ci chiamavano con una voce fantastica. Ah, io la so già questa, però è bella da raccontare. E alla fine tutti quanti mi rompono le scatole, ma Ringo invitala, Ringo mi dice, oh, non c'erano mai i soldi, dice, ma su pure i soldi io per il treno, hai capito, va bene. Queste sono venute, erano due cessi, ma due cessi, era... Se non che a un certo punto Roccia, la regia, io mi giro, non c'è più nessuno, finisce, mi ricordo anche il pezzo, penso uno degli Aerosmith, finisce il pezzo degli Aerosmith, cazzo, corro di là, faccio ripartire un altro pezzo, ricorro in diretta e non c'era più nessuno, c'erano cinque persone, corro di qua, apro, erano tutte cinque su quelle due. Eviteremo allora... di fare i nomi anche perché ho paura che qualcuno sia negli studi. Ah sì? Momento. Addirittura? È qui? Sì. Ho detto, vedi che rock però, arrapo, ho detto, vabbè, fu di molto divertente perché Roccia... E Roccia era l'unico che non riusciva a fare nulla in questo mucchio e si aggirava come un moncerino attorno ai culi e filmava. No, non trovava il posto per buttarsi perché era talmente... Sto capendo quello che sto testando. Era un'orgia, ero coperto da cinque uomini, ma sempre due. Diana e un altro, no, due napoletane ma molto simpatiche, vabbè. E Roccia, mi ricordo, col pantalone giù, che cercava di buttarsi in loggia ma non trovava un buco libero, nel senso, ho capito. Roccia, se ci stai ascoltando, tornai in diretta e dicevo, porca miseria, ho pure pagato io il treno a queste due, se le trovano le altre. Ragazzi, questa è la migliore immagine con la quale potevamo chiudere questo incontro con Ringo, che comunque è qui con noi, ed è questo, è credo sia la migliore dimostrazione dell'affetto e della passione che condividiamo per il buon rock and roll. Quindi grazie. Io vi ho salutato anche in diretta nella mia radio, non l'ho fatto in modo tutti i giorni a piano, l'ho fatto un paio di volte quando era il momento giusto, perché anche nel commiserarsi io non sono di quell'idea, cioè... Hai parlato del mio décolleté? Bene. No, io le tette le ho viste oggi, vuol dire che... sì. Cioè Ringo, ci conosciamo da tipo 15 anni, ma vabbè. Vabbè, ma non eri esperta, adesso sei molto esperta, mi hanno detto. Adesso sei pronta. Credo ci sia qualcosa pronto, però dall'altra parte, con cosa chiudiamo, con cosa salutiamo Ringo? Io ho scelto un pezzo. Ah, il Lemonhead. Era un pezzo che... arrivavano le prime cover nel 93, c'era sta band, Lemonheads, diciamo, come cazzo si vanno a chiamare testi di limone? No, allora però perdonatemi, se si parla di Lemonheads non si può non citare un episodio legato al loro nome. Lemonheads sono venuti a trovarci, credo proprio in quel periodo, durante un'intervista Ivan Dando suonò Fade to Black di Metallica nei nostri studi, registrato da Graziano Melzi, che tra poco sentirete. Beh, insomma, questa versione di Fade to Black è finita come retro di un slime. Allora, litigai con all'epoca penso Braccia Larghe, qualcuno che era di là, perché chiaramente quando loro di One One passavano da noi, però l'orecchio lo buttavano, e chi ha rovinato questa canzone di Simon e Garfunkel? Allora quel giorno io quattro volte al giorno la mettiamo a posto. È giusto così. E mi è rimasta in testa come Lemonheads uguale Rock FM. Ok, allora questo è un valido motivo per chiudere questo incontro. Grazie Ringo. Grazie Ringo. Grazie Ringo. Ringo. Ciao. Hasta luego. Hasta luego. Mr. Robinson.